Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda il tema del giorno, la rimessa in galleggiamento della nave Costa Concordia, permettetemi di dire che avremo un brevissimo approfondimento, perché in quello che è stato un disastro dovuto chiaramente al capitano Schettino, ma non solo, vedremo poi come andrà l'inchiesta, l'Italia sta recuperando una faccia persa e lo sta facendo anche grazie a un consorzio italo-americano, Titan Micoperi, che vede la presenza di moltissime imprese italiane. Vorrei poi ricordarle in apertura, perché ogni tanto anche ricordare che questo miracolo ingegneristico, come molti lo stanno definendo, è reso possibile anche e soprattutto dalla presenza e dal lavoro di tutti i 500, tra cui moltissimi italiani addetti in questo momento, ma anche e soprattutto, dicevo, dalla presenza di società e gruppi leader in questi settori che sono italiani. Quindi è un successo nella disgrazia e nella figuraccia, ma è un successo anche italiano. Ma non di questo parleremo chiaramente come temi di approfondimento. Perché? Perché partiremo subito, per quello che riguarda i temi di oggi, con una notizia che avevo ricordato lunedì scorso, avevo detto forse ne riusciremo a parlarne. Insomma, c'è l'eterna incompiuta che la Salerno-Reggio Calabria. Ricordate, lunedì avevamo annunciato come il presidente dell'ANAS abbia chiesto 3 miliardi per completare gli ultimi 58 chilometri. Ci sembrava un po' tanto, 52 milioni di euro a chilometro, è il doppio della media italiana, che è già doppia rispetto alla media europea. E ne parleremo con lo stesso Pietro Ciucci, anche perché l'anno scorso per la stessa tratta erano stati chiesti 2,5 miliardi. Questa dimostrazione che poi quando lanciamo un tema non è che ce lo dimentichiamo, bisogna anche riuscire ad avere l'ospite e poi interrogarlo. Detto questo, sì, vedo che c'è chi mi corregge: non galleggiamento ma rimessa in asse. Avete ragione, Sloan, il sudafricano che è il capo di tutte le operazioni, alcuni di voi lo vogliono Presidente del Consiglio per raddrizzare gli italiani, insomma il termine mi sembra un po' forte, ma va ben così. Invece, andando avanti con gli appuntamenti di questa puntata, oltre al tema dell'ANAS, delle infrastrutture, del costo delle nostre infrastrutture, vi è anche l'apertura della settimana della moda a Milano da domani al 23 settembre, e il Sole 24 Ore oggi in prima pagina stila il manifesto della moda, sono 6 idee per rilanciare la capitale del Made in Italy nel mondo, e sono punti importanti anche perché, diciamocela tutta, rispetto agli anni 80 e 90 un po' di appannamento c'è stato, e questo coincide con un rilancio più complessivo di Milano in vista anche dell'Expo 2015 in un settore, quello del tessile, non quello della moda, ma quello del tessile in generale, che vale 51 miliardi di euro l'anno e dà lavoro a 500.000 di persone in 50.000 aziende italiane. Pensate che il 52% di tutto il fatturato del tessile va all'export e permette un attivo della bilancia commerciale di oltre 8 miliardi l'anno. L'anno scorso però si è chiuso con il tessile con una flessione del fatturato del 3% e una riduzione dell'export dell'1%. Va detto però che il saldo è rimasto più che positivo, anzi è anche aumentato, perché è calato molto l'import, le importazioni di tessile sono calate. Parleremo anche della vicenda Ilva, di cui ci siamo molto occupati in questi giorni, con gli stabilimenti fermi a Carano Petrusella in provincia di Varese, a Verona, a Lesegno in provincia di Cuneo, a Annone Brianza in provincia di Lecco, oltre ai 3 impianti della Val Camonica. Abbiamo detto in tutti i modi possibili che è giusto che la magistratura, se ha gli elementi, operi secondo quello che prevede la legge, ci mancherebbe, ma un sequestro che va a bloccare l'attività e mette per strada 1.500 quasi persone che lavorano in in un gruppo e in industrie dell'acciaio che hanno commesse, nel caso di Verona fino a dicembre è tutto pieno di ordinativi, nel caso della Valcamonica ci sono 50.000 tonnellate di acciaio già ordinate. Sembra noi un assurdo, cioè sembra noi che poi a pagare, non è che sembra, è così, sia non tanto la famiglia Riva, che è la vera e l'unica imputata dalla magistratura, ma i dipendenti della famiglia del gruppo Riva, che nessuna responsabilità hanno. Ancora per quello che riguarda e il sistema produttivo italiano, perché poi la Riva fornisce acciaio a moltissimi gruppi italiani, c'è l'indotto e quant'altro. Ancora nella seconda ora del programma ci occuperemo invece della visita del commissario agli affari economico monetari, anzi vicepresidente della Commissione europea, il finlandese Olli Rehn, perché ha detto, insomma, ha fatto anche l'esempio di Raikkonen, nell'Italia è come la Ferrari, serve un motore competitivo, ha fatto le congratulazioni per come è andata, come si è svolta l'operazione Concordia. Però ha detto attenzione, la procedura di deficit eccessivo per l'Italia è chiusa, ma dovrà onorare gli impegni presi. E qui riprendo un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno di oggi, no, di due giorni fa, in cui sostanzialmente si diceva la visita di Rehn sembra quasi non una visita così istituzionale, normale, di un vicepresidente della Commissione europea in un paese membro, ma sembra un po' la visita di chi viene a scrivere la prossima legge di stabilità, che per chi non lo sapesse è la vecchia legge finanziaria di una volta. È un po' l'idea che l'Italia non sia commissariata, ma quasi, perché Olli Rehn viene a controllare che noi si sia sulla buona strada e a dettare anche i punti per la prossima legge finanziaria. Non è solo un problema di carattere politico o di prestigio internazionale, è un problema anche proprio economico. E quindi, perché poi la legge finanziaria è quella che va a definire entrate e uscite, ma anche nei vari settori, quindi parlare di semicommissariamento non è solo un problema di, ripeto, di nazionalismo di sorta. Qualcuno mi fa notare che Schettino era comandante, non era capitano, avete ragione, ma non mi sembra questo il punto sull'intera vicenda Concordia. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Oggi la borsa presenta pochissimi spunti, direi quasi zero, come la variazione in questo momento dell'indice di Piazza Affari, che è zero, meno 0,0, a casa mia è 0,0, adesso è meno 0,01, Parigi meno 0,1, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,45, l'America più 0,25. Poche notizie oggi quindi dai mercati: Mediobanca più 2%, Saipem più 1,80 come Diasorin, l'1,40 lo guadagna il Banco Popolare ma anche UbiBanca, l'1% Ansaldo STS, fronte opposto TOZ meno 1,60, ST Microelectronics meno 1,30, Buzzi Unice meno 1,1, Telecom meno 1, Pirelli meno 0,90, Pop Milano meno 0,60 come Fondiaria Sai, Ferragamo meno 0,60, Intesa San Paolo mezzo punto percentuale di calo come Mediaset. Notizie di carattere internazionale, l'indice ZEV sulle aspettative economiche per la Germania è salito a settembre a 49,6 punti contro i 42 punti del mese precedente. Il dato è superiore a ogni stima e la fiducia degli investitori tedeschi, a questo punto immagino anche verso, orientata anche dalla vittoria che si profila abbastanza certa di Angela Merkel. Dicevo, la fiducia degli investitori tedeschi tocca così i massimi da oltre tre anni, dall'aprile del 2010. In realtà poi, sempre sul fronte dei mercati internazionali, oggi si è annullato il divario tra noi e la Spagna, a vantaggio della Spagna. Siamo sostanzialmente a 242 punti, tutti e due paesi, cioè Italia e Spagna, con uno spread comunque rispetto ai bund tedeschi assolutamente in riduzione, quindi sotto i 250 punti. Ancora, per quello che riguarda, non so se si possa chiamare economia internazionale, però c'è un dato che riguarda il latte. Ora dite, il latte è una commodity, ma sì, dovrebbe essere anche una commodity forse, però la cosa interessante è che c'è un record nel prezzo del latte, si vola verso i 52 centesimi al litro e la Coldiretti accusa direttamente le industrie di speculare sul prezzo del latte, perché alla borsa di Verona, quello dove si trattano i cereali e i generi alimentari, appunto, ha toccato 51,55 centesimi al litro, più 25% il latte come prezzo rispetto al 2012. La speculazione denunciata da Coldiretti da parte delle industrie vale 100 milioni di euro, in quanto il latte viene comprato agli allevatori a 42 centesimi e poi però in borsa il prezzo è di quasi 10 centesimi più alto. Volete un mio commento sulle dichiarazioni di Olli Rehn su Raikkonen? Ma insomma, è finlandese lui, è finlandese Raikkonen. Ha detto: l'Italia faccia come la Ferrari, serve un motore competitivo. Perché Raikkonen, se non ricordo male, ha vinto anche un mondiale con la Ferrari, per cui adesso staremo a vedere, no? Comunque, meglio dire che l'Italia faccia come la Ferrari che la Ferrari faccia come l'Italia, questo possiamo dirlo. Invece, poi arriveremo, perché le cose più importanti le ha dette anche sull'IMU. Rehn ha detto: l'abolizione dell'IMU sulla prima casa suscita preoccupazioni per lo spostamento dell'onere fiscale, vuol dire trovare nuove risorse per mantenere il gettito invariato, no? E i flussi di cassa invariati. E poi ha aggiunto Rehn: la decisione di abolire l'IMU sulla prima casa va in direzione opposta rispetto alle raccomandazioni del Consiglio europeo. E ricordando poi Rehn all'Italia, al governo italiano, che l'impegno preso di mantenere il deficit al limite del 3%, gli ha risposto il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni dopo l'incontro con Olli Rehn. Ha detto: l'Italia manterrà il suo impegno, il deficit sarà nel limite del 3% del PIL. Faccio notare però che, visto che quest'anno il nostro PIL, il rapporto deficit, il rapporto, quello che importa del deficit è il rapporto col PIL, no? Deficit nel numeratore, PIL nel denominatore. Allora, visto che il nostro PIL sarà peggiore delle attese, faremo meno 1,7, meno 1,8 invece di un iniziale meno 1,3%, per mantenere questo rapporto tra deficit e PIL sotto il 3% serviranno altri 2-3 miliardi. A questi vanno aggiunti 2,3 miliardi per l'abolizione della seconda rata dell'IMU, 1 miliardo per rinviare l'IVA e 700 milioni di euro per la proroga della cassa integrazione. Ora, se la matematica non è un'opinione, qui stiamo parlando di circa 6-7 miliardi di euro. Il ministro Saccomanni ha detto che non pensa proprio a una manovra correttiva finanziaria, ma di rimodulare la spesa e di intervenire su alcuni capitoli di bilancio. Vedremo. Certo che sarebbe meglio rimodulare, cioè ridurre la spesa pubblica, che fare una nuova manovra di tasse. Su questo ci sono pochissimi dubbi. E anche la Confindustria, oggi in audizione alla Camera, ha detto che con il decreto IMU l'Italia ha dato un segnale disorganico sulla tassazione, anche perché si è persa l'occasione per dare un segnale chiaro e coerente nella direzione di una riduzione del prelievo su lavoro e imprese. Volete sapere sull'IMU? Ne abbiamo parlato decine di volte sull'IMU. Allora, a nessuno piace pagare l'IMU, nessuno che ha la prima casa. Detto questo, è vero ed è innegabile che ridurre le tasse in busta paga ha un vantaggio diretto, soprattutto sui ceti medio-bassi, ha un vantaggio diretto per il lavoratore dipendente, che tanto, avendo appunto le tasse di prelievo in busta paga, le tasse le paga tutte e libera un po' di risorse. Eliminare l'IMU sulla prima casa, che comunque vuol dire eliminare l'IMU anche su fa su case di fasce di reddito molto abbienti che forse l'IMU potevano permettersela, includo anche il sottoscritto. A nessuno fa piacere pagarla, però bisogna capire quali sono le priorità. Se eliminare l'IMU sulla prima casa per tutti, anche su case diciamo che hanno valore alto, oppure ridurre le tasse in busta paga. Ultima notizia che riguarda l'Ilva, o meglio il gruppo Riva. Il gruppo Riva Acciaio ha detto di essere pronto ad avviare un dialogo con il custode giudiziario per verificare se sussistano le condizioni per una ripresa delle attività produttive nei propri stabilimenti. Mi chiedo perché non l'abbia fatto prima. Adesso questo noi abbiamo sempre di fermo. Perché il gruppo Riva non ha cercato di capire prima con il custode giudiziario se esistessero o meno le possibilità di riprendere le attività produttive? No, perché sennò il sospetto che questa vicenda sia stata usata dal gruppo Riva per fare, cioè tu mi punisci con 1 miliardo di sequestro, io ti chiudo gli stabilimenti, e quindi una specie di ricatto. Il sospetto poi sennò viene, ecco, speriamo che il gruppo Riva faccia tutte le procedure urgentemente necessarie per capire con il commissario giudiziario se gli stabilimenti possono ripartire. La Cassazione, ultima notizia, ha respinto il ricorso della Fininvest, come vi hanno ricordato già i nostri GR, contro la CIR per il risarcimento del lodo Mondadori, che rimane confermato con un ritocco a ribasso, un taglio di circa 23 milioni di euro sulla cifra liquidata dai giudici pari a 564 milioni di euro. Una buona notizia arriva dal mondo del no profit: in 10 anni il no profit ha visto crescere il numero di soggetti, batte la crisi, più 28%, anche per reagire ai danni economici e al disagio sociale provocati dalla crisi, si è rafforzato l'associazionismo e il welfare fai da te. Tra l'altro il numero delle associazioni no profit è arrivato a 301.000 per la precisione, con 680.000 persone che vengono aiutate nella loro attività da ben 4.750.000 volontari, quasi l'8% della popolazione italiana. 349-238-6666 per i vostri SMS. E a questo punto passiamo al primo tema di questa puntata. Un sogno, ce lo dedichiamo anche oggi. Un sogno, sapete che ormai fa parte dell'appuntamento del nostro programma. Il sogno ve lo dico fra un secondo. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il sogno di oggi è quello di un paese in cui un tratto autostradale costi, diciamo, non come nei paesi del nord Europa, ma insomma, prendiamo il centro-sud Europa, che costi come in Spagna, come in Francia. Allora, perché? Perché in Spagna al chilometro un'autostrada costa 14 milioni di euro, in Francia 15 milioni, quindi siamo abbastanza vicini, in Italia 32 milioni di euro, il doppio esatto. So già cosa mi verrà obiettato: l'Italia ha una morfologia strana, le gallerie, i viadotti, per carità, ma siamo sicuri che siano solo le gallerie e i viadotti? E poi il sogno è che già una media alta rispetto, cioè doppia rispetto a Francia e Spagna, beh, non diventi tripla o quadrupla se si fa la Salerno-Reggio Calabria, l'eterna incompiuta di questo paese. Perché mancano 58 km per completarla. La richiesta che è arrivata dal presidente dell'ANAS Pietro Ciucci è di 3 miliardi di euro, sono 52 milioni di euro a chilometro, 52 mila euro al metro, quindi quasi doppia rispetto alla media italiana, ma soprattutto siamo quasi a 4 volte, 3 abbondanti rispetto alla media spagnola e francese. Dottor Pietro Ciucci, presidente dell'ANAS, buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a lei. Allora, prima domanda, poi capisco, cerco di capire anch'io perché non faccio l'ingegnere, lei ne sa molto più di me, però come mai l'anno scorso per la stessa tratta voi avete chiesto 2 miliardi e mezzo e adesso sono già 3? Ma perché non è vero, 2,5 miliardi noi non l'abbiamo chiesto l'anno scorso, noi sono anni che diciamo che questi 58 chilometri già progettati costano intorno ai 2,8 miliardi. 2,5 miliardi probabilmente è la stima di 4-5 anni fa, 6 anni fa. Ovviamente, come tutti i prezzi, anche quelli delle autostrade subiscono una crescita nel tempo. Soltanto se pensiamo ai numeri Istat di carattere generale, saremmo tra il 2006 e oggi almeno al 15% di aumento dei costi. I costi dei materiali, la costruzione, a volte subiscono anche andamenti diversi. No, glielo chiedo perché ci mancherebbe, però siccome nel 2009 lei disse costerà i 2 miliardi che il governo stanzierà per la Salerno-Reggio Calabria saranno sufficienti a completarla entro il 2012-2013, vorrei capire che cosa è successo nel frattempo, perché immagino che ci siano stati dei problemi. Ma guardi, bisogna sempre vedere come le cose vengono riprese e riferite a che cosa, altrimenti... No, era una sua intervista a Sky del marzo del 2009, se vuole. Sì, cosa, 2 miliardi di euro nel 2009 non potevano essere sufficienti a fare questi progetti. C'era stata anche un'ipotesi di fare una versione leggera, non una ricostruzione totale dell'autostrada, ma una quella che viene detto a volte dai tecnici, una manutenzione straordinaria profonda che può ovviamente determinare un fabbisogno diverso. Poi bisogna vedere i riferimenti. Quando noi diciamo in questo momento 2,8 miliardi è il costo di quei 58 chilometri, diciamo un costo che è comprensivo di tutto ovviamente, gli espropri, le aree, no? L'acquisizione delle aree, la soluzione delle interferenze, ogni tipo di costo. Magari in altre occasioni si fa riferimento a quello che è il cosiddetto costo a base d'asta, cioè quello che viene messo in gara e che viene affidato alle imprese. Quindi è sempre complicato fare dei confronti nel tempo, ma le posso assicurare che questi sono i numeri corretti. No, nessun motivo per mettere in dubbio, però mi scusi, siccome lei insomma ha una lunga esperienza all'ANAS, nel 2010 lei diceva una nuova Salerno-Reggio Calabria, io leggo le agenzie, poi non so, sì. E la mia fonte sono queste, restano ancora da affidare i lavori relativi agli ultimi 60 chilometri pressoché interamente progettati per un investimento ulteriore di 2,5 miliardi. E questa è un'ansa, era dopo il CDA che si era riunita per valutare. Stiamo parlando del 2010. Ecco, no, infatti la domanda era: che cosa è successo in questi 3 anni? Ma è successo che c'è un naturale adeguamento dei prezzi. Perché immagino. No, mi scusi, Ciucci, però adesso ne mancano ancora 58 chilometri, ho capito bene? Sì, esatto. No, allora io volevo sapere: in questi 3 anni, come mai avete fatto 2 chilometri? No, ma guardi, sono due cose completamente diverse. Allora, i 58 chilometri, i 60 sono un arrotondamento dei 58, che magari parlando, facendo un discorso con un'occasione, un giornalista, un'occasione pubblica, uno può dire 60 invece che 58,6. Insomma. Sì, no, vabbè, su quel tratto lì. Sono 58,6 chilometri che mancano, che sono quelli non finanziati, ma dal 2007 è sempre questo il numero preciso. A volte qualche oscillazione di numero dipende esattamente da che cosa. Uno, da approfondimenti progettuali. Lei sa che ci sono vari stadi di approvazione dei progetti, ci sono richieste di tipo ambientale, richieste per la sicurezza, adeguamenti degli standard tecnici. La nostra autostrada è un'autostrada ricca di gallerie e lei sa che l'Europa ha stabilito recentemente dei parametri, degli standard di interventi ai fini di sicurezza molto, molto prudenti, anche molto onerosi. A volte si aggiunge un'autostrada, che è un corpo vivente, la richiesta del territorio di uno svincolo in più. Allora nell'importo dei 2,5 miliardi probabilmente non c'erano tutti gli svincoli che sono stati poi di cui è stato individuato successivamente mezzo miliardo di svincoli. No, vabbè, allora Ciucci, resti con noi perché adesso io ho il metro della pubblicità, però volevo capire perché a questo punto è importante anche dire le prossime tappe, perché io capisco, ma non ve li hanno più finanziati dal 2010, quando lei disse la completiamo entro il 2013, questi 60 chilometri che mancano, lei non ha più ricevuto un finanziamento a questo punto? Su questi 58, vorrei proprio fare chiarezza. Sì, no, certo. Al massimo, questi 58 chilometri non sono a tutt'oggi finanziati. L'impegno che io ho assunto 2 anni fa, 3 anni fa, a completare i lavori entro il 2013 si riferiva, e questo si può verificare ovviamente per logica, ai lavori finanziati in corso di realizzazione, e siamo molto vicino a raggiungere questo obiettivo. Già nell'esodo di agosto c'erano ben 322 chilometri di autostrada nuova, perché la Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada molto lunga, no? Lei lo sa, più di 400 chilometri. Molto lunga, e sicuramente anche come tempi di realizzazione. Non tanto quanto si dice, perché a volte si fanno riferimenti anche cronologici non puntuali. Allora, la Salerno-Reggio Calabria, la costruzione della nuova Salerno-Reggio Calabria, lei lo sa, noi stiamo quella con la terza corsia, diciamo. No, ma non è soltanto la terza corsia, cioè viene ricostruita tutta l'autostrada con più ampia della precedente, ma non è che si aggiunge la terza corsia o la corsia d'emergenza, si rifà l'autostrada, cioè per questo si dice nuova Salerno-Reggio Calabria. La precedente viene abbattuta, scusi l'espressione, e ricostruita totalmente. Questo è l'approccio, è il sistema di realizzazione. No, va bene. Questa attività è stata avviata nel 2003 con la legge obiettivo, lei sa, no, che apportò delle modifiche importanti da un punto di vista normativo. Siamo al 2013, siamo a 322 chilometri in questo momento nuovi, arriveremo a completare tutti quelli in corso, a parte i 58 chilometri, entro la fine dell'anno. Io credo che sia una realizzazione accettabile. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. 17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, nostro ospite, vi ricordo, il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, per capire insomma che cosa manca e quanto ci costerà l'ultimo pezzo della Salerno-Reggio Calabria, dopo le richieste, la stima avanzata lunedì scorso, 3 miliardi di euro. Allora, presidente Ciucci, due cose, i tempi, perché ho capito, lei dice... se mi danno i soldi la finisco, ragionevolmente i tempi, ma soprattutto, ma perché costa così tanto? Io ho fatto prima l'esempio, no? In Spagna 14 milioni di euro al chilometro, in Francia 15, in Italia 32 milioni di euro al chilometro in generale, in questo caso dividendo 3 miliardi di euro per i 58 chilometri viene fuori 52 milioni di euro al chilometro. Ho capito le gallerie, però insomma no. Non è piccola la differenza. Adesso, come lei sa, insomma, i confronti fatti su paesi diversi, opere diverse, sono sempre un po' pericolose. No? Certo, l'orografia italiana non è confrontabile. Se lei a volte si dice, no, l'Italia ha più della metà delle opere d'arte di tutto il mondo, ma io aggiungo che ha anche più di 2/3 di tutte le gallerie d'Europa. ANAS da sola ne ha 1000 di gallerie per centinaia e centinaia di chilometri, e le gallerie sono un costo notevolissimo, altissimo, anche perché le norme sulla sicurezza volute anche dall'Europa, e ovviamente che noi, a cui noi ci adeguiamo, cioè la sicurezza è sempre l'obiettivo principale, porta a un costo elevatissimo nell'attrezzaggio degli impianti e poi nella manutenzione. Quelle c'erano anche la Spagna e la Francia, però l'Europa vale per tutti. Non ne hanno certo nella stessa maniera, le dicevo prima, 2/3 delle gallerie d'Europa stanno in Italia, insomma, questo per dire, no? Allora, per darle un'idea, nel rapporto, nei costi, tra un chilometro di autostrada in pianura e un chilometro di autostrada in montagna, quindi ricco di gallerie d'opera d'arte, il rapporto è 1:3. Cioè, si triplica il costo un'autostrada di montagna rispetto a un'autostrada di pianura. Un aspetto pure importante nel costo complessivo, che non è soltanto il costo dei materiali, della manodopera, no? Ma è il costo degli espropri, è il costo delle interferenze. Allora, non c'è un territorio così antropizzato e così fortunatamente ricco di bellezze come l'Italia, ma questo significa costi ambientali, questo significa costi per le ricerche archeologiche, significa costi per le acquisizioni delle aree, che incidono in maniera fortissima sul costo complessivo delle opere. Dobbiamo vedere poi, e questo non lo dico io, perché questo tema lo si è esaminato tante volte, no? C'è quello che viene, usando un termine inglese, io cerco di evitarli i termini inglesi della verità, ma un over design, cioè le nostre norme tecniche vanno oltre, come dire, richieste a livello europeo e impongono alla progettazione dei costi notevoli, no, in termini geometrici, no, di caratteristica della strada. Faccio un esempio, la Catania-Siracusa, che è una delle autostrade più recenti, più belle d'Italia, fatta da ANAS, completata pochi anni fa, pur attraversando una zona, una pianura, una piana di Catania, della zona collinare, è ricchissima di gallerie perché praticamente l'autostrada non la si vuol vedere, e chiaramente da un punto di vista paesaggistico, ambientale, è un bellissimo risultato, ma costa tantissimo fare cose così. Allora, una delle cose che si è suggerito nei numerosi tavoli anche governativi per ridurre i costi è anche quella di ridurre questo cosiddetto over design, questo super progettazione, se possiamo tradurlo. Ciucci, mi dica una cosa, al di là dell'over design, quanto pesano le mafie? No, ma guardi, la lotta contro le mafie. No, dico perché magari non è che sappiamo tutti che c'è un problema sarebbe troppo semplice da parte mia. No, chiedo, magari avete avuto dei costi che sono lievitati con i fornitori, con i subfornitori. No, chiedo, voi sareste vittime eventualmente. Noi abbiamo un sistema di controllo fortissimo sulla tutte le fasi realizzative, sull'acquisizione dei materiali, sulle caratteristiche dei materiali. Noi facciamo 2.000-3.000 controlli sul cemento armato ogni anno, abbiamo un servizio ad hoc per questo, collaboriamo con le prefetture, abbiamo degli accordi di legalità con tutte le regioni praticamente d'Italia, su tutte le opere principali. Nulla, non segnala, diciamo, un aumento dei costi? Io non saprei dare. Certo, mica lei è la DIA, però no. Dico, lei non ha notato un aumento dei costi nei fornitori, subfornitori? No. Non attribuibile a questo, guarda, nemmeno per quello che... Vabbè, se l'avessi notato ovviamente l'avrei anche denunciato. Beh, ci mancherebbe. Questo è, quindi la mia risposta è, come dire... Mi dia una data, così poi la libero da questa graticola. Quando la finiamo la Salerno-Reggio Calabria? Ma guarda, noi entro fine 2030. O quando la finiamo con la Salerno-Reggio Calabria, che sarebbe meglio dire? Ma è evidente, non posso dare una scadenza per quei 58 chilometri. Io so che nella legge di stabilità, nei prossimi provvedimenti, c'è una forte possibilità che si inizi a finanziare quei 58 chilometri. Uno dei primi lotti di quei 58 chilometri, il più importante in ordine di priorità anche per motivi di sicurezza. Io spero che ci siano le compatibilità di sicurezza pubblica che consentano questo. Dal momento in cui c'è il finanziamento ci vogliono 4 anni per realizzare un tratto importante di... Quindi 2020, diciamo, immaginando che il governo tiri fuori i soldi nel 2019-2020. Esatto, sì, però tenga conto che non è frattempo, c'è l'autostrada, c'è, cioè, vedete, quei 58 chilometri. Che la demoliamo un'altra volta per rifare un'altra volta, sempre migliore. Certo che c'è, mancano quei 58 chilometri. Cioè, non è la nuova Salerno-Reggio Calabria, ma c'è un'autostrada a doppia carreggiata, 4 corsie. Ma una curiosità mia, adesso devo dare anche linea al traffico, tanto per restare in tema, ma non si poteva semplicemente fare la terza corsia nella vecchia autostrada? La risposta è no, perché le caratteristiche dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è nata con dei parametri, con degli standard di progettazione molto risparmiosi, se posso dire, usare questo termine, e quindi andare a aggiungere una corsia d'emergenza alla vecchia autostrada non è efficiente, perlomeno il risultato sarebbe stato un papocchio, scusi, sempre un'espressione così. No, invece non è stato un papocchio. Grazie. Questa è la nuova autostrada, è una delle più belle autostrade d'Europa, non d'Italia. No, la nuova Salerno-Reggio Calabria è la più bella autostrada d'Italia. Se vuole andiamo a percorrere insieme e sì, vedrà che sì. condividerà questo mio giudizio. A piedi però la facciamo, così gli ultimi no, 58 chilometri. No, perché adesso da Salerno a Reggio Calabria la facciamo in 4 ore, quindi 440 chilometri, l'assicuro che... No, ma vengo quando inaugurate gli ultimi 58 chilometri, prometto che vengo, facciamo tutto Focus Economia in diretta. Io l'aspetto anche prima. Se ci sei... anche prima. Va bene, grazie l'ingegnere Pietro Ciucci, presidente grazie dell'ANAS. A lei. Grazie a lei. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine. È un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. No, non ce la faccio più, con la Salerno Reggio Calabria, lasciatemi stare, vedo decine di messaggi, raga, di cosa stiamo parlando? È chiaro che insomma, qualcosa forse non funziona lì dentro. Invece vorrei rincuorarmi, visto che poi parleremo anche delle imprese italiane che hanno contribuito a questo successo della Concordia, dell'operazione che è finita questa mattina, ma ci sono altre imprese importantissime in questo paese. Ripeto, il tessile vale 51 miliardi di euro e 8 miliardi di export, una bilancia commerciale come saldo attivo. Si apre domani la settimana della moda milanese e oggi su Sole 24 Ore Paola Bottelli, che è la responsabile di tutto ciò che riguarda la moda nel mondo del Sole 24 Ore, ha fatto un manifesto con i punti per sostanzialmente rilanciare la moda italiana. Paola, buonasera. Buonasera a tutti. Elencaci i punti, senti che bella voce che hai, elencaci i punti, poi dopo il GR li analizziamo uno per uno. Ne abbiamo identificati 6: investire sul territorio, garantire più risorse alla creatività, puntare sulla formazione, incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, la spinta all'internazionalizzazione e quella che abbiamo definito una solidarietà di sistema. Ecco, perché hai sentito l'esigenza, d'accordo chiaramente anche col direttore, di fare un manifesto per la moda? Uno dice, ma è Made in Italy, la moda, Milano, è tutto bene, tutto in discesa. Perché la moda italiana è indubitabilmente la più forte del mondo per qualità e per valore dell'export, però è sotto assedio da parte delle altre capitali della moda che ospitano le sfilate, da New York a Parigi, soprattutto Londra, che si muovono in modo molto più dinamico di noi, perché il nostro paese è fermo. E quindi serve un salto di qualità, un cambio di passo, un orgoglio tipo Costa Concordia da utilizzare, spalmare su tutto il paese. Ah beh, c'è chi vuole il sudafricano presidente del consiglio, quello che l'ha raddrizzato per raddrizzare anche il paese. Dopo il GR invece mi racconti i vari punti, nel senso che lì c'è un investimento da fare anche importante. La borsa, vi dovrete accontentare, la faccio io oggi. 349-238-6666 per i vostri sms. Nel frattempo Piazza Affari è chiuso con un rialzo dello 0,11%, meno 0,16 Parigi, meno 0,20 Francoforte, meno 0,80 Londra, bene Mediobanca più 1,90% e bene anche Saipem più 1,90, Diassorin più 1,80, Banco Popolare più 1,5, Ansaldo STS più 1,40. Male, Tod's meno 1,60, Boots Unice meno 1,20, ST Microelectronics meno 1,20, Pirelli meno 1%. Il 18:09 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento con Paola Bottelli del Sole 24 Ore, responsabile della parte moda del Sole 24 Ore, alla luce del manifesto per rilanciare la moda italiana apparso oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore. La necessità ce l'hai spiegata, Paola. L'Italia resta il primo polo mondiale nel tessile abbigliamento, Però Milano, quanto anche capacità di veicolare poi la tendenza, di fare tendenza, vede la concorrenza molto forte non della Cina o dell'India, ma di New York, di Parigi e di Londra. Ora, a me sembra, ma ci capisco molto poco, che manchi soprattutto quella che si chiama, con un termine un po' abusato, una cabina di regia. Cioè, poi le singoli stilisti sono bravissimi, le case, l'industria della moda, ognuno va avanti per sé, però poi la cabina di regia complessiva un po' langue. Vediamo invece appunto New York e Londra, che anni fa non esistevano nel panorama, imporsi anche con forza. Mi sembra molto corretta questa tua valutazione. L'unica cosa che spero è che non nominino il milionesimo commissario ad acta in Italia anche per far questo, però quello che è certo è che ci sono tanti galli nel pollaio. La nuova Camera della Moda, in cui si sono finalmente fatti vivi anche gli imprenditori, gli amministratori delegati dei più grandi marchi, ricordiamoci che c'è Bertelli di Prada vicepresidente vicario e che gli altri vicepresidenti sono Gildo Zegna, Diego Della Valle, Angela Missoni, quindi persone che si stanno impegnando direttamente per rilanciare Milano. È chiaro che sono tutte personalità molto forti e che comunque devono coordinarsi con la città. Quindi il sindaco Pisapia per la prima volta ha concesso il Teatro alla Scala domani sera, finalmente un grande concerto del tenore Grigolo, che abbiamo intervistato sul Sole di Oggi, inaugurerà questa settimana della moda. È una cosa bella da fare, perché nelle altre città, quando ci sono le sfilate, ci sono molti molti più eventi. Andare a Parigi è più bello, ci sono più ristoranti, più locali dove andare a fare gli aperitivi, più divertimento e anche un po' di cultura e entertainment ci vuole anche qui a Milano, dove non c'è quasi niente, dove la domenica, quando siamo in giro per le sfilate, non riusciamo nemmeno ad andare in un bar a bere il caffè, perché i bar del centro sono tutti chiusi. Sì, lo so, sembrano dettagli, però attenzione che poi i buyers, che è un nome per dire chi compra, chi ci mette i soldi, chi compra i nostri tessuti, anche questo cercano, e ne abbiamo vestiti, borse, occhiali, certo, ci mancherebbe, scarpe. E ripeto, 51 miliardi di euro con 8 miliardi di avanzo commerciale la dicono lunga sull'importanza del settore. Devo dire che in molti casi vedo anche dei parallelismi con altri settori di eccellenza dell'Italia, penso all'alimentare, al vino, dove anche lì abbiamo faticato non poco a far capire al territorio l'importanza e anche a trovare una cabina di regia unica per agire con forza. Speriamo, e speriamo che appunto anche in vista dell'Expo 2015 Milano, ossia l'Italia, riacquistino questo ruolo, diciamo, di grandi capacità di attrazione. Riscatto come quello di oggi, di quello di oggi sulla Concordia, e da qui partiamo per gli altri due temi di questa puntata, e mi riferisco alla vicenda Riva da un lato, e poi anche questa visita del vicepresidente Olli Rehn a Roma, che ad alcuni è parsa come un mezzo commissariamento della prossima legge finanziaria di questo paese. Grazie a Paola Bottelli. Grazie a voi, buona serata. E buone sfilate. Tu che potrai andare, noi le vedremo forse da qui. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiamano Fincantieri, Cimolai, Rossetti, Gas e It, Trevi, Fagioli, Nuova Olmec. Sono questi i marchi, i nomi delle imprese dell'orgoglio, o del riscatto più che orgoglio, che ha permesso l'operazione sulla Concordia. Fagioli, 20 milioni di commessa per i martinetti idraulici installati e costruiti per sollevare la Concordia. Fincantieri, 60 milioni di commessa. Ha realizzato tutti i blister tank, i cassoni speciali, quelli che avete visto che avvolgono la prua, tutti per rimettere in asse la nave. Sono cassoni costruiti su misura, quelli a forma di parallelepipedo. Li ha costruiti nei quattro cantieri italiani di Genova, Palermo, Napoli e Ancona. La Romagnola Trevi, 20 milioni di commessa per le perforazioni, le torrette, quelle di colore rosso, tra la nave e il lato terra, sostanzialmente quelle che hanno permesso l'ancoraggio al fondo marino delle 11 torri di ritenuta, sono sostenute da blocchi di acciaio, anchor block si chiamano, e li ha realizzati appunto la Trevi nell'officina spezzina Nuova Olmec, che è un'altra società ancora. Lì la commessa valeva 5 milioni. Ancora, le piattaforme per la costruzione del falso fondale le hanno realizzate 3 aziende italiane, la Rossetti di Ravenna, la Cimolai di Udine, la Pisana Gas e IT, valore della commessa 40 milioni di euro. Brave, complimenti a queste imprese italiane per il riscatto italiano. Ci sono altre imprese brave ugualmente che sono invece bloccate e i loro dipendenti sono per strada, e mi riferisco a tutte le imprese del gruppo Riva. E continuiamo a dire se è mai possibile arrivare a una situazione in cui la magistratura sequestra 1 miliardo quasi di euro ai Riva, loro chiudono l'attività di impianti che avevano commesse nel caso degli impianti della Val Camonica per 50.000 tonnellate di acciaio e nel caso degli acciai prodotti a Verona nell'ex Galtarossa, commesse fino a dicembre, per cui con un fatturato complessivo di 1 miliardo di euro. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. C'è qualche spiraglio? Ma spiragli non se ne vedono ancora, c'è un problema in più, che non solo gli stabilimenti industriali del nord del gruppo Riva sono chiusi e ci sono 1.400 esuberi, ma da oggi anche centinaia e centinaia di fornitori del gruppo sono in serie difficoltà, perché il gruppo Riva ha inviato una lettera a tutti i fornitori oggi dicendo: non vi possiamo pagare, abbiamo i conti correnti bloccati e quindi i vostri soldi per ora non li potete vedere. E quindi l'effetto di questo blocco, di questo sequestro adesso si propaga anche sul tessuto di piccole e medie imprese che appunto forniscono materiali, beni e prestazioni a tutto il gruppo Riva. Ci sono già le proteste della CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, preoccupata per questa situazione, per questo vero e proprio tsunami che investe tutti coloro che lavorano appunto col gruppo Riva. Ovviamente la CNA contesta il provvedimento dell'azienda e dicendo: voi siete impegnati in una battaglia giudiziaria, questa battaglia la dovete combattere in tribunale, non la dovete scaricare sulle piccole e medie imprese fornitrici. Era stato previsto un incontro fra il custode dei beni sequestrati, il commercialista di Taranto Mario Tagarelli, con i vertici del gruppo Riva. Questo incontro ancora non c'è, ci sarà a breve ma non c'è ancora una data. Fra l'altro Tagarelli ha ricevuto nelle ultime ore anche una telefonata del ministro dello sviluppo economico Zanonato. Da quello che si apprende, Tagarelli ancora non ha il possesso materiale di questi beni, perché il sequestro della Guardia di Finanza, che è partito una settimana fa, non si è ancora formalmente concluso. Una volta che si concluderà, i beni verranno trasferiti all'amministratore giudiziario, appunto a Tagarelli, e da allora si potrà vedere in che modo le attività possono riprendere, perché il custode giudiziario ha manifestato disponibilità a far riprendere l'attività delle aziende, e quindi si tratta un po' di verificare in che modo il sequestro potrà rendere compatibile il ripristino degli impianti. Rimane quindi una situazione di forte tensione sia dei dipendenti del gruppo Riva, che andranno in cassa integrazione, giovedì ci sarà un incontro al ministero, ma soprattutto anche sull'indotto, che è una rete molto estesa di piccole e medie. Scusami Domenico, una domanda probabilmente banale e stupida, spesso le faccio, ma non potevano muoversi prima anche il gruppo Riva con il custode giudiziario? Perché oggi le agenzie dicevano: siamo pronti al dialogo col custode, cioè prima di arrivare al blocco delle attività, perché poi costerà 300.000 euro riavviare il forno di Verona e via così. Il sequestro c'è stato a metà della scorsa settimana. Sì, poteva essere avviato prima questo confronto, però ancora oggi il custode non può fornire al gruppo Riva le risposte che il gruppo Riva attende. Ma tu che ne sai di più, ma è normale che un sequestro ci metta una settimana? No? Un sequestro, no? Questo è anche un sequestro però esteso, perché riguarda 13 società a decine di città in Italia, sono quasi tutti immobili, quindi evidentemente ci saranno dei tempi, come dire, tecnici di cui la finanza ha bisogno, perché le società sono 13, gli stabilimenti sono 7, gli immobili sono sparsi in ogni dove. La cosa che preoccupa è chiaro che questo blocco prolungato si sta ripercuotendo prima sulle aziende, adesso a cascata. Sull'indotto, e anche su quelle aziende che andavano fornite dai Riva, perché poi ci sono tantissime industrie italiane che aspettavano l'acciaio dei Riva. Ma anche l'Ilva, che che tutto sommato è al riparo da questi sequestri, l'Ilva di Taranto, di Genova, di Novi Ligure, guarda con preoccupazione, perché ieri sera Bondi è stato a Palazzo Chigi e Bondi ha manifestato tutte le sue preoccupazioni per quello che si sta verificando, perché il timore del commissario è che proprio nel momento in cui l'Ilva sta riprendendo fiato, sta cercando di venire fuori dalle secche, e quest'onda negativa che riguarda il gruppo Riva che va detto rimane proprietario dell'Ilva benché sia commissariata, bene, Bondi teme che questo possa avere un effetto anche sulle commesse, su quei clienti che si stanno riavvicinando all'Ilva dopo un anno di battaglia giudiziaria, perché un anno di battaglia giudiziaria sugli impianti di Taranto aveva allontanato i clienti, l'Ilva aveva visto ridurre drasticamente il suo portafoglio commesse. Adesso c'è una piccola ripresa, però i clienti se vedono tutta questa bufera che si sta scatenando sul gruppo Riva, hanno paura e così come sono venuti se ne vanno. This morning I also had a very substantive and questa mattina ho incontrato, ed è stata una discussione estremamente costruttiva, il ministro Saccomanni, che mi ha ribadito l'impegno da parte del governo italiano a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di bilancio concordati con i partner europei. Ed è stato proprio questo tipo di impegno che di fatto ha permesso alla Commissione di raccomandare l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Rimaniamo in attesa dei dettagli delle misure concrete che l'Italia intenderà adottare per coprire e compensare il mancato gettito nel 2013, causato dalla decisione di abolire l'IMU sulle prime case. E naturalmente andremo a vagliare con grande attenzione queste misure di compensazione, come ad esempio l'imposta sui servizi, che è stata proposta per cercare di determinare se siano effettivamente conformi alla raccomandazione del Consiglio di spostare l'onere impositivo dai fattori di produzione, ossia dal lavoro e dai capitali, verso il consumo, la proprietà e l'ambito ambientale. Property and the environment. Così il vicepresidente, nonché commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn, dopo l'incontro con il ministro dell'economia Saccomanni. Saccomanni mi ha rassicurato. Avete già colto nell'ultima parte di questo suo intervento anche la critica che fa l'Europa, che poi lui ha esplicitato. La decisione di abolire l'IMU sulla prima casa presa dal governo italiano va in direzione opposta rispetto alle raccomandazioni del Consiglio europeo. L'Europa vorrebbe che venissero ridotte le tasse sul lavoro, sulla parte produttiva, e invece spostate sulla parte, diciamo, improduttiva, sulla parte di rendita. Questo dice l'Europa. Guido Gentili del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Guido, tu hai temuto, è scritto nei giorni scorsi su Sole 24 Ore, che la visita di Rehn non fosse una visita istituzionale come fa con tutti i paesi membri, ma fosse un mezzo commissariamento, cioè fosse venuto per dire come dobbiamo scrivere la legge finanziaria, che si chiama adesso legge di stabilità. Hai fugato i tuoi dubbi oggi? No, ho avuto la conferma assoluta, perché il commissario e vicepresidente della Commissione europea Rehn ha spiegato quello che è il nocciolo duro delle nuove regole di governance europea, che prevedono appunto che la legge di stabilità venga presentata ovviamente dal governo italiano al Parlamento italiano, ma contemporaneamente alla Commissione europea e all'Eurogruppo, che valuterà nel merito entro il 30 novembre il progetto di bilancio italiano, farà le sue osservazioni pubbliche, e successivamente, qualora dovesse verificare che si discosta il piano dagli impegni presi dal governo italiano e si discosta dalle raccomandazioni espresse dalla Comunità Europea, e quindi verificare che c'è un possibile sfondamento, ad esempio dal lato del deficit pubblico, la Commissione può riaprire immediatamente la procedura di infrazione. Questo è il percorso che ha di nuovo spiegato Rehn alla politica italiana, e che come al solito arriva su questi provvedimenti e su queste decisioni così importanti con ritardo, e ogni volta li scopre all'ultimo momento, dopo averli magari approvati a larghissima maggioranza in Parlamento nei mesi scorsi. Ogni riferimento a altre vicende del tutto casuale. Esatto, è del tutto casuale. E guarda caso dicembre 2012, tutte le vicende, e quindi è chiaro che è una situazione, diciamo, difficile, perché nel merito adesso inizia una partita molto complicata, perché diciamo il governo ha sì confermato il rispetto degli impegni, ma questo ovviamente ci sarà una verifica puntuale nei fatti. E ad esempio c'è da provare, indicare con precisione la copertura finanziaria per la seconda rata IMU abolita, e c'è da trovare la copertura per il blocco di 3 mesi dell'IVA, e bisogna fare i conti con le raccomandazioni della Commissione, che a maggio scorso e non 20 anni fa ha detto appunto che bisognava spostare il carico sostanzialmente dalle persone, carico fiscale dalle persone alle cose, e quindi ovviamente non vede di buon occhio, e anzi ha bollato oggi con parole chiare la manovra, ad esempio, che è stata fatta di sgravio sul fronte dell'IMU, che però è un accordo, diciamo, sappiamo, di carattere politico, alla base del quale c'è il governo delle larghe intese. Allora, noi avevamo fatto un calcolo all'inizio del programma. Allora, servono 2-3 miliardi per mantenere il deficit sotto il 3%, perché quest'anno il PIL calerà più del previsto, meno 1,8 contro l'1,3. Poi servono 2,3 miliardi per la seconda rata IMU, 1 miliardo per il rinvio dell'aumento dell'IVA, 700 milioni di euro per la cassa integrazione. Sono circa 6-7 miliardi. Tu ci credi che Saccomanni riuscirà a trovarli rimodulando la spesa? No. Basta, ciao, arrivederci. A questo elenco che tu hai fatto aggiungi anche le missioni internazionali, che è un impegno importante che è scaduto il 30 di settembre. Quindi sono circa 6 miliardi e mezzo, rimodulazione della spesa in tre mesi di questa portata è molto difficile. Quindi è probabile che si finirà da qualche lato di questa manovra, si finirà per infilare qualche tassa in più. Questo mi sembra inevitabile, e su questo bisogna stare però molto attenti, perché ad esempio oggi Ren ha detto con molta precisione che la Commissione europea aspetta di conoscere i dettagli della famosa service tax, che partirà dal 1 gennaio, ma che il governo italiano deve ancora scrivere. E anche lì c'è un'incognita grande come una casa. Grazie Guido, che ci fa chiudere in bellezza con l'ipotesi di nuove tasse, e siamo tutti più contenti. Grazie Guido Gentili. Però il tema è serissimo, attenzione, con i numeri non si scherza, e i numeri che abbiamo dato sono il minimo per arrivare sotto il 3% a fine 2013. Anche la politica se ne occuperà quando saranno finiti altri problemi. Intanto noi vi diamo appuntamento a domani dalle 17 in poi, e da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona giornata. Radio 24, la passione si sente.